Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra cortese attenzione, grazie a Cristiano Valli per la regia. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla medesima ora. Buona domenica.